cuore la sua canzone ti voca ancora. E ti va dir i suoi martir le pene che la vita può sol calmar. Mi farai.